wanna stop our love. Please, baby, don't cry. One day I have enough money for our love. For our love. Please, baby, don't cry. Please, baby, don't cry. Domani arriverà lo stesso. Please, baby, don't cry tonight. Oggi è già domani, asciugati le lacrime lo stesso. Please, baby, don't cry. Il futuro non ti riserverà la stessa cosa. Please, baby, don't lie tonight. Un giorno forse sarà amore e tu forse sposa. Please baby don't stay. Se il futuro non ti lega ad una mano al profumo di rosa. Please baby don't cry. Domani arriverà lo stesso. Please baby don't cry tonight. Oggi è già domani, asciugati le lacrime lo stesso. Please baby don't cry. Il futuro non ti riserverà la stessa cosa. Please baby don't lie tonight. Un giorno forse sarà amore e tu forse sarai la mia sposa. Please baby don't stay. Se il futuro non ti lega a una mano al profumo di rosa. Please baby run away. Dove stai? Dove il tempo non ti riposa. Don't lie to you, don't cry for me. Don't lie tonight, run away if you run to your special love again. I know you are true when you can be true. It's true when true is true to you. Quindi non mentirmi quando ti chiamo amore. Quindi non mentirmi quando ti chiamo amore. Quando ti chiamo amore. Quindi non mentirmi quando ti chiamo amore. Please baby don't lie. Domani arriverà lo stesso. Please baby don't cry. Domani arriverà lo stesso. Please baby don't cry tonight. Oggi è già domani ad asciugarti le lacrime lo stesso. Please baby don't cry. Il futuro non ti riserverà la stessa cosa. Please baby don't lie tonight. Un giorno forse sarà amore e tu forse la mia sposa. Please baby don't stay. Se il futuro non ti lega ad una mano al profumo di rosa. Please baby run away. Dove stai? Dove il tempo non ti riposa. Forse il mondo smetterà di tagliare tanti amori. Forse le ipocrisie finiranno e c'è chi abbasserà le mani in vista di un nuovo amore e ci arricchirà queste mani stanche di lavorare.